Niente sigarette. Certo. Ecco cosa ti stimola l'appetito. La tua donna cucina troppo bene. Sì, piccola. Papà, tu fumi un'altra volta. No, no, no, questa è solo erba. È giusto una cannetta. Dammi qua. È vero, è proprio cannabis sativa. Vedi? È solo uno spinello, tesoro. Perché la mamma dice non fumare più tabacco, mai più. Sì, lo so, ho smesso. Mai più. Mai più. Niente più tabacco. Promesso. Ok. Fateci le mani in pace senza troppi drammi. Drammi.